Mentre il mondo sta finendo e il bushismo dilaga, tu lavori troppo, dormi poco, hai mal di testa? Innestati Neurogreen e la tua vita tornerà a esistere. Neurogreen contro la distopia ovunque essa sia. Avvertenze, può provocare diffusi effetti di ribellione sociale, fisica e culturale. Sabato 22 gennaio, al Bellville ribattezzato Neuroville, Neurogreen Party. Electro Bastard Pop dalle ore 22, meeting point continuo in piazza Robiland. Domenica 23 gennaio, Electronic Free Lab in corso Ferrucci 65A a Torino. Dalle 12, brunch più assemblea transitalica per lanciare percorso Pink Carnival. Per fare di Torino un centro di pervasione e sovversione pink.